destino, il tuo cuore è un bambino, una casa dove alloggia divino, il divino, e per questo, mio tesoro, tu vali molto più dell'oro, tu che hai dato a tutti un posto e ti dimentichi del resto. In questa terra che ci accoglie, tra le erbacce, tra le stelle, siamo soli come belve del deserto, sabbia e perle, una strada che non ha fine, una frontiera senza confine, una rotta da seguire che ci farà a tutti bene. Navi di sogni nuovi stanno arrivando nel tuo porto e portano con loro molto di più ti sarà offerto. La tua pazienza è grande, tu principessa tra la gente, hai dato l'anima finché avvenga, adesso suona per te una banda di musicisti, di suonatori, sono lì tutti, lì ai tuoi piedi, e fanno festa a te che fiera, hai superato ogni bufera, collezionando spighe di grano, tu contadina di ogni mistero, tu luce quando l'ombra è sovrana, tu imperatrice del mondo regina, favola di questo tempo, anima bella, dopo il tuo pianto, tu meriti il meglio del meglio, tu per me sei l'anima del mondo. Sofferto, tanto amato, sempre perdonato, prendilo è tutto, tuo il mondo, questo mondo illuminato. Navi di sogni nuovi stanno arrivando nel tuo porto e portano con loro molto di più ti sarà offerto. Pazienza è grande, tu principessa tra la gente, hai dato l'anima finché avvenga, adesso suona per te una banda di musicisti, di suonatori, sono lì tutti, lì ai tuoi piedi, e fanno festa a te che è fiera, hai superato ogni bufera, collezionando spighe di grano, tu contadina di ogni mistero, tu luce quando l'ombra è sovrana, tu imperatrice del mondo regina, favola di questo tempo, anima bella, dopo il tuo pianto, tu meriti il meglio del meglio, tu per me sei l'anima del mondo.